Noi opporremo appunto la forza alla forza, dice il cittadino. Abbiamo una più grande Irlanda di là dal mare. I nostri fratelli furono cacciati dalle case dai focolari nel nero 47. Le loro capanne di fango e le casupole lungo la strada maestra furono demolite dall'ariete e il Times si fregò le mani e disse a quei pulcini bagnati dei suoi lettori sassoni che ci sarebbero stati tra poco tanti irlandesi in Irlanda quanti pelli rosse in America. Perfino il Gran Turco ci ha mandato le sue piastre. Ma il sassone cercava di affamare la nazione in patria, mentre la campagna era fiorente di raccolti che le iene britanniche comprarono e rivendettero a Rio de Janeiro. Sì, cacciarono via i contadini a torme. 20.000 ne morirono in quella navi bara. Ma coloro che approdarono alla terra della libertà ricordano la terra del selvaggio e ritorneranno e con la giunta alla derrata. Non sono dei codardi i figli di Granwyle, i paladini di Kathleen ni Houlihan. Perfettamente vero, dice Bloom, ma io intendevo dire che è molto che aspettiamo quel giorno, cittadino, dice Ned. Da quando la povera vecchia ci disse che i francesi correvano il mare ed erano sbarcati a Killala. Certo, dice John Wise, abbiamo combattuto per i regali Stuart, che ci hanno rinnegato per i seguaci di Guglielmo III e ci hanno tradito. Ricordatevi di Limerick e della pietra del trattato infranta. Abbiamo dato il nostro sangue migliore alla Francia e alla Spagna, le anatre selvatiche irlandesi, uccelli migratori. Fontenoy, eh? E Sarsfield, e O'Donnell, duca di Tetuan in Spagna, e Ulysses Brownie di Camus, che è stato feldmaresciallo di Maria Teresa. Ma che cosa ce n'è venuto? I francesi, dice il cittadino, una manica di maestri di ballo. Capite cosa vuol dire? Non sono mai valsi una scorreggia arrosto per l'Irlanda. E ora non stanno cercando di fare un entente cordiale con la perfida Albione a quel pranzo di tipi? Sono sempre stati loro a metter fuoco all'Europa e seguitano a farlo. Conspuez le Français, dice Lenian, aggranfiando la birra. E quanto ai tedeschi e gli hannoveriani, dice Joe, non ne abbiamo forse abbastanza di quei mangiasego maledetti sul trono, dall'elettore Giorgio fino al giovanotto tedesco e a quella vecchia troia scorreggiona che è morta. Cristo, c'era da ridere. E come attaccò a parlarci della vecchia che strizzava l'occhio ubriaca fradicia nel suo palazzo reale tutte le sere che Dio mandava, la vecchia Vic con la sua razione di whisky irlandese e il cocchiere che la raccattava come un sacco di cenci per infilarla a letto e lei a tirarlo per i baffi e a cantargli dei brani di canzoncine come Here on the Rhine e Vieni dove il mommo è a buon mercato. Beh, dice JJ. Ora abbiamo Edoardo il pacificatore. Va a raccontare a qualcun altro, dice il cittadino. C'è più pece che pace in quel bischero fottuto. Edoardo Guelf Vettin. E cosa ne pensi, dice Joe, dei santi ragazzi, preti e vescovi d'Irlanda che gli decorano la stanza a Mainot coi colori sportivi di Sua Maestà Satanica e attaccano dappertutto fotografie di cavalli montati dai suoi fantini. Conte di Dublino, né più né meno. Avrebbero dovuto attaccare tutte le donne che ha montato lui, dice il piccolo Alf. E JJ dice: considerazioni di spazio hanno influito sulle decisioni delle loro signorie. Ne vuoi provare un altro cittadino? Dice Joe. Sì, signore, dice, senz'altro. E tu? Dice Joe. Obbligato, Joe, faccio io. Che la tua ombra possa rimanere sempre la stessa. La stessa dose, dice Joe. Bloom seguitava a parlare e parlare con John Wise ed era tutto eccitato, con quel muso color can che scappa e gli occhi color prugna che giravano da tutte le parti. Persecuzione, dice lui, tutta la storia universale ne è piena. Si perpetua l'odio nazionale tra le nazioni. Ma lei sa cosa significa una nazione? Dice John Wise. Sì, dice Bloom. Cos'è? Dice John Wise. Una nazione? Dice Bloom. Una nazione. È la stessa gente che vive nello stesso posto. Per Dio! Allora, dice Ned, ridendo, se la cosa sta così, sono una nazione anch'io, perché è da 5 anni che vivo nello stesso posto. Così, per forza, tutti gli risero dietro a Bloom. E lui dice, cercando di uscirne in qualche modo, o anche che vive in posti diversi. Questo è il mio caso, dice Joe. Qual è la tua nazione, sia lecito? Dice il cittadino. L'Irlanda, dice Bloom. Sono nato qui, l'Irlanda. Il cittadino non disse nulla, si schiarì appena in gola e, per Diana, fece volare una patacca di scaracchio fin nell'angolo. E ora sotto a chi tocca, Joe, dice tirando fuori il fazzoletto per asciugarsi il sudore. Eccoci, cittadino, dice Joe, prendetelo nella mano destra e ripetete dopo di me le seguenti parole. L'antico pannicello facciale irlandese, tesoro inestimabile di ricamo finissimo, attribuito a Salomone di Droma e a Manus Tomaltach Og MacDonoch, autori del libro di Ballymote, fu allora esibito con cautela e suscitò prolungata ammirazione. Non cade qui il rilevare la leggendaria bellezza dei quattro angoli. Il colmo dell'arte, laddove si può ben distinguere ciascuno dei quattro evangelisti, che a sua volta presenta a ognuno dei quattro maestri il simbolo evangelico, lo scettro di quercia fossile, un puma del Nord America, un ben più nobile re degli animali rispetto all'analogo britanno, sia detto di passaggio, un vitello di Kerry e un'aurea aquila di Carantuoil. Le scene raffigurate sul campo e montorio, che rappresentavano le nostre antiche colline e fortilizie Cromlech e Greenough e sedi di dottrina e pietre della maledizione, sono di bellezza mirabile e le tinte sono delicate, quanto lo erano al tempo in cui i miniaturisti di Sligo lasciavano briglia sciolta alla loro fantasia artistica. Ora molt'anni all'epoca dei Barmecidi. Glendalough, i deliziosi laghi di Killarney, le ruine di Clon MacNois, l'abbazia di Cong, Glen Innach e i 12 birilli, l'occhio d'Irlanda, le verdi colline di Talacht, Croagh Patrick, la distilleria della ditta Arthur Guinness, figlio e soci, società anonima. Le rive di Loch Neagh, la valletta di Ovoca, la torre di Isolda, l'obelisco di Mapas, l'ospedale di Sir Patrick Dunn, il Capo Clare, la valle di Hyrlaw, il castello di Lynch, la Scotch House, l'ospizio notturno comunale di Rathdown a Lough Linstown, la prigione di Tullamore, le rapide di Castle Connell, Kilbally McShonachill, la croce di Monaster Boys, il Jury's Hotel, il Purgatorio di San Patrizio, il Salto del Salmone, il refettorio del collegio di Maynooth, la Tana di Carli, i tre luoghi natali del primo duca di Wellington, la roccia di Cashel, la torbiera di Allen, i magazzini di Henry Street, la grotta di Fingal. Tutte queste scene commoventi vi sono tuttora visibili, a noi rese ancora più belle dai torrenti di dolore che sono passati sopra di esse e dalle ricche incrostazioni del tempo. Ci spinga un po' qua i bicchieri, faccio io. Di chi sono? Quello è mio, dice Joe, come disse il diavolo al poliziotto morto. Anch'io poi appartengo a una razza che è odiata e perseguitata, dice Bloom. Anche adesso, proprio in questo momento, proprio in questo istante. Per Diana, per poco non si bruciava le dita con la cicca di quel sigarone. Derubati, dice, spogliati, insultati, perseguitati, ci vien tolto quel che ci appartiene di diritto. In questo stesso momento, dice. Alzando il pugno, ci vendono all'asta nel Marocco come schiavi o bestie. Sta parlando della nuova Gerusalemme? Dice il cittadino. Sto parlando dell'ingiustizia, dice Bloom. Giusto, dice John Wise, ma allora opponetevi con la forza, da uomini. Eccovi un'illustrazione da almanacco. Bersaglio per una pallottola, dum dum, quella faccia di sugna dietro alla culatta d'un cannone. Per Diana, ce lo vedo di più dietro la ramazza, davvero. Gli ci vorrebbe solo un grembiale da bambinaia. E poi crolla tutto a un tratto, torcendosi tutto all'incontrario, moscio come un cencio bagnato. Ma non val la pena, dice. La forza, l'odio, la storia, tutto. Non è vita questa per degli uomini e delle donne. Odio e insulti. E tutti sanno che è precisamente il contrario di quel che è veramente la vita. Cosa? Dice Alf. L'amore, dice Bloom. Voglio dire, il contrario dell'odio. Ora devo andare, dice a John Wise. Un momentino al tribunale per vedere se c'è Martin. Se viene, ditegli che torno tra un minuto. Solo un momento. E chi ti tiene? E via come un fulmine lubrificato. Ah, un nuovo apostolo per i gentili, dice il cittadino. Amore universale. Beh, dice John Wise, non è così che ci dicono. Ama il prossimo tuo. Quello, dice il cittadino, ha fama il prossimo tuo, è il suo motto. Amore, per gli dèi, è un bell'esempio di Romeo e Giulietta. L'amore ama amare l'amore. L'infermiera ama il nuovo farmacista. Il vigile 14A ama Mary Kelly. Gertie McDowell ama il ragazzino con la bicicletta. MB ama un signore biondo. Li Chi Han amale tanto sua Cha Pu Chow. Jumbo, l'elefante, ama Alice, l'elefantessa. Il vecchio Mr. Vershoil, col corno acustico, ama la vecchia Mrs. Vershoil, con l'occhio torto. L'uomo dal Macintosh marrone ama una signora morta. Sua maestà il re ama sua maestà la regina. La signora Norman W. Tupper ama il tenente Taylor. Tu ami una certa persona e questa persona ama un'altra persona, perché ciascuno ama qualcuno, ma Dio ama tutti. Beh, Joe, faccio io, alla salute tua e dei tuoi e a maggiori fortune, cittadino. Urrà! E sotto, dice Joe. La benedizione di Dio e della Vergine di Patrizio su di voi, dice il cittadino, e su col bicchiere a bagnarsi il becco. Li conosciamo questi bacchettoni, dice lui, che predicano e ti tagliano la borsa. Che ne dite del santimonioso Cromwell e dei suoi fianchi di ferro che passarono a fil di spada le donne e i bambini di Drogheda con la citazione biblica Dio e amore incollata intorno alle gole dei cannoni. La Bibbia! Avete letto quella satira sull'United Irishman di oggi, di quel capo Zulù che visita l'Inghilterra? Che roba è? Dice Joe. Così il cittadino afferra subito uno dei giornali del mazzo e attacca a leggere a voce alta. Una delegazione dei principali magnati del cotone di Manchester è stata presentata ieri a Sua Maestà l'Alaki di Abea Kuta dal capo del rompicollo Lord Kemeny sulle uova, onde porgere a Sua Maestà i sentiti ringraziamenti dei commercianti britannici per le facilitazioni accordate loro nei suoi domini. La delegazione ha preso parte a una colazione a conclusione della quale l'oscuro regnante, nel corso di un felice discorso, tradotto liberamente dal cappellano britannico, il reverendo Ananias Benedicit Tuttos, ha porto i suoi più vivi ringraziamenti a Massa Kamini e ha sottolineato i cordiali rapporti intercorrenti tra Abea Kuta e l'impero britannico, affermando di tenere presso di sé, come il più prezioso dei tesori, una Bibbia miniata, il libro della parola di Dio è il segreto della grandezza dell'Inghilterra, grazioso presente della grande capa bianca, la Grand Squaw Vittoria, con dedica personale dell'augusta mano della regal donatrice. La Alachi beve poi una coppa dell'amicizia di whisky di prima qualità, brindando al Black and White, nel cranio del suo immediato predecessore della dinastia dei Cacaciacaciac, soprannominato 40 Porri. Dopodiché visitò la prima fabbrica di Cotonopoli e fece la sua croce nel registro dei visitatori, eseguendo successivamente un'antica danza di guerra abiacutica, nel corso della quale ingoiò diversi coltelli e forchette in mezzo ai divertiti applausi delle operaie. Una vedova, dice Ned, al di sopra di ogni sospetto. Chissà se della Bibbia ne ha fatto lo stesso uso che ne avrei fatto io. Lo stesso e forse di più, dice Lenian. E di poi in quella terra ferace il mango dalle grandi foglie fiorì ancor più rigoglioso. È di Griffith, dice John Wise. No, dice il cittadino. Non è firmato Shanganagh, c'è solo l'iniziale. Una bella iniziale, davvero, dice Joe. Ecco come sta la storia, dice il cittadino. Il commercio segue la bandiera. Beh, dice JJ, se fanno peggio dei belgi nello stato libero del Congo, deve essere un bello stare. Avete letto il rapporto di quel tale? Come diavolo si chiamava? Casement, dice il cittadino. È un irlandese. Sì, proprio lui, dice JJ. Violentano donne e ragazze e frustano gli indigeni sulla pancia per cavar fuori il più possibile di quel caucciù rosso. Lo so io dove è andato, dice Lenian facendo schioccare le dita. Chi? Faccio io. Bloom, dice lui. Il tribunale è uno specchietto per le allodole. Aveva qualche scellino su buttavia ed è andato a raccattare i dindi. Volete dire quel cafro dagli occhi bianchi, dice il cittadino, che non ha mai puntato su un cavallo in vita sua neppure per sbaglio? È lì che è andato, dice Lenian. Ho trovato Bantam Lyons che andava a scommettere su quel cavallo se non l'avessi sconsigliato io e mi ha detto che gliel'aveva detto Bloom. Scommetto quanto vi pare che vince 100 scellini su 5. È l'unica persona in tutta Dublino che l'abbia. Un cavallo sconosciuto. È un fottuto cavallo sconosciuto lui stesso, dice Joe. Aspetta, Joe, faccio io. Dici dov'è l'ingresso per uscire? Eccolo lì, dice Terry.